2500. Signora, tutto quello che ho fatto in questo luogo venite a scegliere. Prego, signori, prego. E che te perché mi ci avete 50 lire? Forza, forza, signora, forza! Signori, tutto il regalo per 100 via! Assortimento mai visto, prego, 20 pezzi, il tessuto, la qualità, prego! Il tessuto, la qualità, la confezione da là! Sinta, colori assortiti! Sinta, ti do la sinta! 300 via! Facciamo!